Sconvocati di Carlo Genta. We need a challenge. The media say we are savage and we are callous. When we go out and leave it damaged, believe in magic. They hope we burn. The thought is tragic. The thought is tragic. Why always me? Why always me? Why always me? Why always me? I'm screaming. Why always me? Why always? Why always me? Why always? Why always me? Why always? Mario Balotelli. Quando un giocatore se ne va vuol dire che tutte le tre componenti che fanno parte della hanno preso questa decisione, dalla società all'allenatore allo stesso Mario. Sicuramente perdiamo un grande giocatore, ma probabilmente acquisiamo sotto altri punti di vista, della voglia del gruppo, qualcosa in più, per cui di questo dobbiamo essere contenti. Con me devo dire che questo mese si è sempre allenato e si è comportato bene. Qui gli faccio un in bocca al lupo e niente, noi andiamo avanti. Non mi interessa adesso. Bene, I can categorically tell you that I can't speak about it or anything until a player sign. I think every club will have a code of conduct for the people and the professionals that work. You know, we've got quite an extensive code of conduct for players and staff here, so there's no specific one for any one individual. It covers across the professional group of people here, both staff and players. Basta che gioco. Ciao a tutti, noi torniamo in diretta. Balotelli invece torna in Inghilterra, non è ovviamente notizia di oggi, ma è la prima volta che ne parliamo insieme. A me personalmente dispiace, lo sapete, lo trovo comunque un personaggio interessante e un giocatore interessante. Mi spiace che non faccia più parte del nostro campionato. Credo che tutti, o la grande maggioranza dei tifosi del Milan, la pensino diversamente. 800240024, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione. E dal campionato inglese vorrei partire, perché dalla Premier. La voce tecnica di Fox Sport per questa stagione di Premier League è Paolo Di Canio. Ciao Paolo, grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Non so se sia il campionato più bello del mondo, come una volta si diceva di quello italiano, ma il più ricco di sicuro, la Premier. È anche più bello. Ricco. Sì, più bello, bisogna vedere tutto l'aspetto tecnico-tattico, in generale è più spettacolare, questo di sicuro, anche partite che probabilmente non sono appetite in quanto a blasone, ti rubano l'occhio, ti fanno divertire, anche se con qualche errore di troppo, però tanto ormai vediamo in tutti i campionati anche le grandi squadre commettono errori, per cui almeno ci si diverte, c'è l'ardore, c'è la passione, c'è l'agonismo. E ci sono gol impossibili, anche perché solo in quel campionato si tentano cose incredibili, questo ormai dagli anni Ottanta, anche tiri da lontano, insomma, sì, si sì, di sì. Più, perciò questo rende... Dov'è Paolo Di Canio? Adesso torna, Paolo, ci sei? Sì, mi sentite? Sì, adesso sì, sei sparito per un attimo. No, dimmi. Io parlavo come uno scemo in treno. No, ma ti abbiamo sentito fino a tiri da lontano, poi sei scomparso comunque. No, per dire che sì, osare appunto anche cose quasi impossibili, non c'è il timore, non c'è la paura di rischiare, perciò anche, come vi dicevo prima, giocatori che non sono magari fortissimi o di grandissimo nome, riescono a fare delle cose che magari in altri campionati non si vedono. Poi in generale è proprio lo spettacolo, sì, insomma, che il mondo inglese porta allo stadio. Senti, ma ti sei fatto così appetito questo campionato? Tu quel campionato lì l'hai frequentato da giocatore, da allenatore, in tutte le maniere, ti manca di fare presidente. Ti sei fatto un'idea sul motivo per cui il campionato più bello, più ricco, più spettacolare del mondo non riesca a produrre una nazionale decente? Beh, io ho dato diverse versioni prima dell'inizio della fase finale del mondiale, mi sono fatto ulteriori nemici in Inghilterra, perché con la mia proverbiale, insomma, diplomazia sì. che ho detto che non avrebbe passato il primo turno e ho elencato una serie di motivi. Poi si rischia anche, perché poi magari è una partita, no, che ti fa passare un turno, ma che avrebbe trovato grandissime difficoltà, e ho spiegato delle motivazioni. Una è eclatante, evidente, che non fare, secondo me, il winter break, cioè fermarsi d'inverno, quei 25 giorni che permette ai giocatori sicuramente di ricaricare le batterie a livello mentale e anche fisicamente, di staccare un attimo e poi rifare una piccola, diciamo così, richiamo di preparazione, permetterebbe di arrivare più carichi nei tre mesi successivi alla fase finale mondiale che si gioca d'estate. Poi è evidente, il discorso è che in Inghilterra c'è un modo di pensare, però prendere o lasciare, purtroppo l'ho capito anche a mie spese ultimamente, che i giocatori devono essere lasciati molto più liberi per tanti motivi, per cultura, anche per quanto riguarda la severità nei ritiri, nella disciplina e nell'educazione alimentare, cosa fondamentale per un atleta qualsiasi livello, figuriamoci per un atleta che deve giocare con una macchina da guerra sì. per tantissime partite nell'arco di un anno. E tu qualche problema ce l'hai avuto da quel punto di vista da allenatore? Ma sì, però sì, diciamo, questo sono un po' le problematiche. Giocatori che spesso vogliono, per esempio, non accettano di dormire in coppia, nel senso che gli inglesi soprattutto sono restii e vogliono la stanza individuale. Allora quando arrivano magari, sai, a far gruppo con tanti stranieri, si ha la difficoltà di far capire che il processo di integrazione degli altri, di miglioramento, passa attraverso anche la comunicazione, stare il più possibile insieme. E poi in generale anche perché, onestamente, di veri talenti negli ultimi tempi ce ne sono visti pochi anche lì. Noi dobbiamo pensare alle grandi squadre che lottano sempre per vincere il torneo e lottano in Champions, ci sono pochissimi britannici, pochissimi inglesi, per cui è quello che un po' è accaduto negli ultimi 15 anni, prima degli ultimi, diciamo, 4-5 anni in Italia, quando l'Italia era uno dei paesi più forti, sì. Delle nazioni più forti. Noi ci mantenevamo ancora a un grande livello, a livello di nazionale, proprio per i talenti, per la disciplina e per la conoscenza tattica dei nostri giocatori, che sono addestrati sin da piccoli. Però avevamo in squadra, ricordiamo anche la squadra dell'Inter, insomma, tutti stranieri fortissimi, presi un po' in giro per il mondo. Questo forse è anche quello che è accaduto ultimamente in Italia, cioè siamo arrivati a questo punto proprio perché in quegli anni eravamo fortissimi a livello di club, ma avevamo tantissimi stranieri in squadra. Sì. In Inghilterra ormai negli ultimi 15 anni è così, per cui è difficile far salire grandi talenti, fare esperienza internazionale, tantissime partite insieme e soprattutto averne 25-30, perché certo, tu ne puoi avere 3-4, certo, ma poi il resto è di mediocrità, insomma. Certo. Paolo, ti chiedo un attimo di pazienza e poi parliamo del tuo debutto di stasera. Liverpool City, un City, cioè un Liverpool che non avrà in campo il giocatore più atteso. Ho già ricevuto un sacco di messaggi, perché la mia posizione su Balotelli non la cambio anche adesso che è andato a Liverpool, e grosso modo è quella di un ascoltatore che scrive: da milanista dico dove lo troviamo un altro che fa 30 gol in 54 partite, e il mio pensiero è più o meno questo. Tutti convocati. It's Mario Balotelli here, and I accept the Bad Ice Challenge from Blechino. I'm gonna nominate. Beh, ha nominato Muntere de Seni in questo che è il gioco, il tormentone dell'estate, l'Ice Bucket. Paolo Di Cagno stasera debutti al microfono di... No, Paolo Di Cagno stasera debutta, adesso lo proviamo a ripescarlo in treno, debutta con Liverpool City. Come ho detto su Balotelli, il mio pensiero è quello espresso, insomma, mi dispiace che il campionato italiano abbia perso un giocatore di talento, chiacchierato, discusso finché volete, però certamente un giocatore di talento. Un giocatore che mi diverto a vedere giocare quando è in una buona e quando gioca e quando non si fa cacciare fuori, eccetera. Perdiamo anche un personaggio, che male c'è nell'essere personaggi? Contraddittorio, controverso, sopra le righe certamente. Paolo Di Cagno al debutto stasera in Liverpool City senza Balotelli. Paolo, rieccoci. Sì, ciao. Senti, Balotelli su una specie di navetta. Milano, Manchester, Milano, Liverpool. Il tuo pensiero su questo giocatore qual è? Il problema è che fosse stato per scelta sarebbe già un qualcosa di diverso, ma spesso esausti degli atteggiamenti è stato forzato, insomma, diciamo, il suo allontanamento, per cui giocatore che è indiscutibile sotto l'aspetto di una qualità individuale, tecnica, ma che non mette mai o quasi mai a disposizione del gruppo a 360 gradi, perché i numeri che dicevi prima sono semplici da raccontare, sono giusti, veri, ma per far crescere un gruppo che vuole vincere non basta fare una tripletta, una doppietta, fare numeri, perché c'è una gestione di un gruppo che vuole lavorare insieme in sintonia, con empatia positiva, per cui lottare insieme, non vuole farci togliere i titoli o l'attenzione da atteggiamenti fuori dal campo di un individuo che spesso e volentieri fa passare idee per tutto tranne che per quello che fa in campo. Anche da me potrebbe fregarne poco di questo, ma prettamente vorrei parlare appunto dell'aspetto tecnico-tattico. Un giocatore che non corre, non lotta molto, è un giocatore che gioca solo con la palla addosso, per cui in una grande squadra questo non è più possibile, io credo. Perciò adesso starà lui dimostrare in una squadra che gioca insieme, che ha una identità ben spiccata, grazie all'allenatore molto bravo, sì. Giocatori che lottano, corrono e lavorano per la squadra e si aiutano reciprocamente, capire se finalmente potrà fare quel famoso salto di qualità che tutti abbiamo aspettato e stiamo aspettando da anni. Sì, non mi sembri particolarmente convinto, e mi pare anche di capire che da allenatore Balotelli non lo vorresti nella tua squadra. No, io dico, non dico da allenatore non lo vorresti, noi stiamo eccellenti a parlare di squadre di livello mondiale, di stagione, dei problemi, Siamo fatica a sentire Paolo Di Canio dal treno. Lo saluto e lo ringrazio comunque. Volevo parlare anche dello United, fosse possibile, perché lo United mi sembra il grande interrogativo di questa stagione inglese. Un pareggio con il Sunderland, adesso arriverà Di Maria, 85 milioni di euro dal Real Madrid. Di Maria, gran giocatore, ma non mi sembra uno di quei giocatori che ti cambiano la vita. Quanto a Balotelli, sono curioso appunto di vederlo nel Liverpool, squadra beh, sfigata, l'anno scorso ha perso un campionato già vinto e adesso ci riprova con Balotelli. Non so quanto sia contento realmente Rodgers di avere questo giocatore. Io credo che per quanto riguarda il Milan invece Inzaghi stia perdendo un giocatore importante, visto quello che è il Milan. Il Milan in questo momento è una squadra che non può correre per nessun traguardo, non può correre per nessun obiettivo, ma almeno di quelli che normalmente persegue. 800 24 00 24, se volete parlarne. Noi ovviamente iniziamo per buoni ultimi, tutti i campionati principali sono già cominciati. A proposito, la Spagna stasera gioca il Real Madrid, ieri ha giocato il Barcellona, dove pare ci sia un nuovo fenomeno che si chiama Munir. Partita facile quella del Camp Nou contro l'Elche, i catalani hanno vinto 3-0. Solita doppietta di Messi, poi questo Munir, classe 95, che ha segnato il suo gol. Ma c'è stato un episodio curioso che è stato riportato da molti e ripreso da molti, perché all'inizio di questa partita non un grande presagio per questo debutto interno dei Blaugrana. È arrivato il gatto nero. È un animale, por Dios. Así comienza la Liga. El Barcelona frente a Elche. Vaya, no lo puedes agarrar, ¿eh? Quiere ser titular. Pero, titular inamovible. Titular inamovible. No es el gato Benzema. Está claro. Porque además juega en el Madrid, se viste de blanco el gato. Señores, complicada la historia. Este pequeño animalito. El pequeño animalito, titular inamovible, está claro, nel Barcellona. No, è vero, ¿eh? Potete andare a vedere anche video, filmati, eccetera, dove volete, dove vi pare, compare dappertutto questo ormai famosissimo gatto nero che all'inizio della partita del Barça contro Lecce è entrato in campo. Camp Nou, titolare inamovibile. 800 24 00 24, mi interessa sapere la vostra, anche perché non abbiamo ancora parlato insieme. Vi ha raccontato tutto un paio di settimane fa, fino al giorno di Ferragosto, Giovanni Capuano. Allora, lezione di Tavecchio, peraltro chi ci ascolta lo sa, io l'avevo detto, nessuno mi credeva, nessuno di tutti i miei illustri colleghi, di tutti i miei abituali interlocutori, che Carlo Tavecchio sarebbe diventato presidente della Federcalcio. Questo è avvenuto. Forse sono rimasto ancora più sorpreso della nomina di Antonio Conte come CT della nazionale. Unica soluzione in questo momento accettabile per una nazionale italiana in uno dei momenti peggiori della sua storia. A proposito di Tavecchio, Duilio da Milano stia lì, 800 24 00 24 è il numero verde. È notizia di oggi quella secondo la quale il procuratore della Federcalcio Stefano Palazzi, che conosciamo bene, ha archiviato l'indagine sul neoeletto presidente federale Carlo Tavecchio per la frase sui mangiabanane pronunciata il 25 luglio scorso. La motivazione spiega che non sono emersi elementi disciplinari a carico di Tavecchio. Dunque, vada in pace ed è stato assolto. Duilio, buongiorno. Buongiorno. È un cappello, no? Io prima della partenza ai mondiali, no? Feci una battuta un po' colorata, dice: dove vanno a giocare questi energumeni, diciamo così, dal fisico rigido e con quegli orrendi mutandoni? Bon, queste cose. Però post mondiali, dico, mi sembrava che Prandelli mi ha ricordato il famoso ragionier Filini che organizzava le gite, sì, perché mi è parso che là facessero tutti i comodi loro e secondo me Gigi Riva dove era? Perché non c'è più in nazionale, che li avrebbe messi un po' in riga in quell'albergo? Ho capito, ma Gigi Riva non fa parte da qualche tempo non fa più parte dello staff della nazionale. Mancava una persona seria lì in mezzo a questi abitanti. Certamente è stata un'assenza che si è sentita. Ora, io non credo che tutto sia dipeso da quello che è successo in albergo, che è successo in ritiro, eccetera, eccetera. Penso che siano stati diversi fattori concomitanti. Certamente a Prandelli una cosa mi è chiara, a Prandelli è sfuggito di mano il gruppo, è sfuggita di mano la gestione del gruppo ai mondiali, perché nell'ultimo anno sinceramente ha perso un po' la presa sul timone della barca azzurra. Ha lavorato benissimo fino all'europeo, ha lavorato molto bene nella fase di qualificazione ai mondiali e conosciamo bene quali risultati, sappiamo quali risultati l'Italia, la nazionale italiana abbia fatto, si è qualificata per i mondiali in maniera inusuale per le nostre nazionali, molto facilmente, però nell'ultimo anno ho l'impressione che Prandelli, per motivi che non conosco, che non mi sono chiari, nell'ultimo anno di lavoro Prandelli ha perso la presa sul timone. Voglio farvi sentire qualche altra voce, aspettandovi 800 24 00 24, come quella di Mirko Vucinic, perché io apprezzo quando i giocatori, quando c'è qualche giocatore che dice la verità, non poi vengono a raccontarti no, sono andato in America a giocare perché è una scelta di vita, perché voglio far imparare l'inglese ai miei figli, perché mi piacciono i grattacieli, eccetera. Vucinic è andato a giocare ad Al Jazeera, secondo me Vucinic è un giocatore che poteva stare ancora ampiamente per qualche stagione in un campionato importante di prima fascia, in qualche squadra importante. Invece è andato a giocare, si è sportivamente, calcisticamente seppellito nell'Al Jazeera. Perché? Perché hai scelto l'Al Jazeera? Ma per motivo, perché il mondo arabo mi affascina molto, perché c'è tanto lusso e perché lusso affascina tutti, e poi in più volevo fare una nuova esperienza. In più una nuova esperienza, buttata lì così, però il motivo l'avete capito. Quindi personalmente chapeau nei confronti di Mirko Vucinic, sono andato lì perché il lusso piace a tutti, ragazzi. Mica male, eh? Mica male, no, caro Pierluigi Pardo, tornerà presto dalle lunghe vacanze post-mondiali, Pardo, prossimamente su questi schermi. Il lusso piace a tutti, il grano piace a tutti, e Vucinic perché andare a giocare nella Jazeera? Non perché gli piace il colore della maglia o per visitare il deserto di notte, è andato lì perché ci sono i soldi. Corrado Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io volevo tirare fuori un paio di idee su Mario Balotelli, nel senso che sono un interista. Quando Mario è andato via dall'Inter ero al tempo stesso deluso e contento, deluso perché perdevamo un campione, contento perché non... Aspetti Corrado, non ho capito il perché deluso, sul perdiamo un campione, l'Inter ha perso un potenziale campione così come l'ha perso il Milan, perché Balotelli un campione non lo ha ancora. Certamente è un giocatore di grandissimo talento, con dei difetti che dovrà correggere, difetti calcistici molto chiari che prima Di Canio ha sottolineato con grande precisione. E che tutti per finire con lo stesso Prandelli, cominciando con gli allenatori precedenti, Mourinho eccetera eccetera, sappiamo bene come tanti, come tutti i suoi allenatori abbiano più volte sottolineato quali siano i difetti di Balotelli, tattici principalmente, e che Balotelli non è mai riuscito fino a questo momento a correggere. È questo il passo che manca a un giocatore di grande talento per essere un campione. Poi ce ne sarebbe qualche altro, non dico dal punto di vista comportamentale in campo, ma soprattutto fuori dal campo, ma soprattutto in campo, perché è lì che Balotelli pecca, questo lo sappiamo tutti. Non so se c'è Corrado da Bergamo, se è tornato, se è caduta la linea. Cioè, allora eravamo rimasti al campione potenziale campione, lei da interista era rimasto deluso, sì, quando Balotelli è andato via, sì, contento perché? Contento anche perché comunque speravo che da italiano si sarebbe fatto le ossa all'estero, sarebbe riuscito un pochino a crescere, cosa che invece non è riuscita. La mia considerazione è più di carattere economico, mi sembra di poter dire che in questo momento, quando lui è passato alla corte di Mancini, la valutazione, se non ricordo male, era di 28 milioni di euro. Poi è tornato al Milan sui 20, adesso 24. Ripassa al Liverpool, sui 20. Quindi sembra che con gli occhi addosso di mezzo mondo la sua valutazione è comunque una valutazione in calo, e sì, quindi sì, è un campione che da potenziale sta diventando più un mezzo fallimento, sì, quindi sarà una delle ultime occasioni. Allora lei fa, è interessante leggerlo anche da questo punto di vista, però basta guardare la parabola che Balotelli ha seguito nelle ultime stagioni. È un giocatore in calo, non solo dal punto di vista della quotazione, che è un valore abbastanza aleatorio, però è chiaramente dal punto di vista calcistico un giocatore che sta prendendo un abbrivio sbagliato per la sua carriera. 800 24 00 24, numero verde, è tornato il tempo dell'angolo per gli scommettitori, sentiamo quello, poi torniamo. Quote e pronostici. Monday night da urlo in Premier League, dove nella seconda giornata si affrontano Manchester City e Liverpool, ovvero le due maggiori protagoniste della scorsa stagione. Calcio d'inizio alle ore 21 con i Reds privi di Balotelli, che avrebbe potuto esordire contro la sua ex squadra. Sono queste dunque le quote snai per questa partita. L'1, la vittoria del Manchester City, è quotata 1,80, l'X è a 3,75, il 2 invece con la vittoria del Liverpool è quotato 4,25. La Liga invece gioca stasera il meglio della prima giornata, con il Real Madrid e l'Atletico in campo. Alle 20 è il turno delle Merengues, impegnate alla Bernabeu contro il Cordoba. Real strafavorito per questo match, lo dicono le quote, con la vittoria del Real l'1 quotata 1,05, l'X a 12, il 2 il successo del Cordoba quotato 30. Alle 22 invece in campo, nel derby madrileno contro il Rayo Vallecano, l'Atletico che proverà a difendere il titolo di campione di Spagna già da questa partita. Pronostico più aperto per questo match: l'1, la vittoria del Rayo è quotata 6, l'X è a 4,25, il 2 con il successo dell'Atletico quotato 1,50. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Saluto in arabo. Sai che non so. Non solo yella yella. Allora, torniamo con un paio di ascoltatori dalla Toscana. 800 24 00 24 è il numero verde. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo manifestare il mio dissenso nei confronti dell'elezione del presidente Tavecchio. Mi piacerebbe proprio vedere gli sportivi che manifestano questo dissenso andare allo stadio con la fascia nera al braccio, proprio il lutto, guarda. Sei io del lutto? Sì. Cioè, pochi mesi fa, quando c'è stato quell'evento a Barcellona dove il giocatore ha raccolto la banana e l'ha mangiata, l'hanno tutti proprio esaltato questo gesto, ma tutto il mondo. E noi eleggiamo presidente il signor Tavecchio. No. L'elemento rappresenta il calcio, una delle rappresentazioni maggiori del nostro paese, poi dopo addirittura. Fascia nera al braccio. Fascia nera al braccio anche da parte di quelli che l'hanno eletto? Perché non è che si è eletto da solo. Infatti, no, penso che loro sicuramente non ce la metteranno, ma insomma questo è un po' quello che ci rappresenta in tutto, è proprio lo specchio questo qui. Sì, è stata un'elezione molto tormentata, molto travagliata sulla figura di Tavecchio, voglio dire, l'abbiamo detto molte volte, c'era un... dissenso diffuso, credo, da parte di tutto il popolo del calcio. Certamente non si è presentato bene sul lavoro che andrà a fare. Possiamo sospendere il giudizio. Dico soltanto che l'elezione di Tavecchio non mi ha sorpreso per nulla. Erano in molti a sostenere che si sarebbe ritirato all'ultimo istante, che non sarebbe stato eletto, che queste gaffe avrebbero comunque cambiato qualcosa, ribaltato la situazione, che Malagò avrebbe preso in mano in maniera decisa e magari andando sul confine della legalità sportiva avrebbe preso in maniera decisa in mano la situazione. Tutto questo non è avvenuto, Tavecchio è stato eletto presidente federale. Certamente l'abbiamo detto molte volte anche con Pardo, la comunicazione in questo ambiente, in questo momento, in questo mondo sta diventando qualcosa di estremamente importante, e viene qualche brivido nel pensare che in questo momento particolarmente importante, così difficile, il calcio italiano, il vertice della Federcalcio sia di un signore che con la comunicazione ha qualche problema. Mettiamola così. Restiamo in Toscana. Antonio da Pisa, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Carlo. Va bene, mi associo a questa proposta della fascia nera, che mi sembra provocatoria, però condivisibile, diciamo. Però ti chiedo, perché prima ho sentito un ascoltatore dire che Balotelli, io sono milanista dai tempi di Rivera, e sì, quindi ho visto passare giocatori e resto milanista, quindi passato Balotelli, pace. Ma questo è chiaro, i giocatori e gli allenatori passano, restano le magliette, certo. Appunto. Però volevo dire, lui diceva precedentemente che ha visto ridursi il valore commerciale, quindi Balotelli non, diciamo, è nella fase calante. Volevo soltanto dire che se va a vedere invece quanto la curva del suo ingaggio è semplicemente si fa soltanto innalzando da un anno all'altro, sì, quindi vuol dire che forse il cartellino cala ma l'ingaggio sale, sarà bravo il procuratore. No, ma la domanda che volevo farti, se mi sai rispondere, è questa. Io avevo sentito dire l'anno scorso che Gagliani aveva inserito una clausola di riduzione automatica di tutti gli ingaggi in caso di mancata qualificazione, e questo sarebbe uno dei motivi per cui Balotelli se n'è andato. Però poi si dice tutti i giorni che non si può fare mercato perché mancano i soldi della Champions. Allora, o hanno ridotto gli ingaggi e hanno recuperato il gap, oppure c'è qualcosa che non torna, insomma. Qualcosa che non torna di sicuro, anche perché mi sembra che la politica del Milan non sia granché cambiata. Almeno a leggere i nomi che rimbalzano come possibili sostituti di Balotelli, gli ultimi due che ho letto oggi sono quelli di Fernando Torres, anni 30, giocatore ormai scomparso dalle mappe del grande calcio da qualche tempo, non dalle mappe del grande calcio certamente, non dalle mappe dei grandi ingaggi, perché ne chiama 10 di milioni all'anno al Chelsea. Un altro nome che leggo è quello ben noto di Samuel Eto'o, anni 33, ingaggio altissimo, e questa mi sembra la politica del Milan, ma non da adesso, da molti anni, cioè giocatori che non costano nulla dal punto di vista del cartellino, ma che chiamano ingaggi molto pesanti. E l'ultimo è stato eclatante, è stato Essien, giocatore inutilmente arrivato a metà dell'anno scorso con un altro anno di contratto da un sacco di soldi. Vorrei però parlare di un altro argomento, perché di Balotelli mi sto un po' stufando oggi. 800240024, vorrei parlare delle scintille che ieri abbiamo visto sulla pista di Spa. Prova all'esterno e c'è il contatto, attenzione, l'anteriore, la anteriore. Foratura per Lewis Hamilton, e questo il primo colpo di scena. Aspettavamo le scintille tra i due e c'è stato il fuoco col contatto dell'ala della macchina di Rosberg con la posteriore sinistra di Lewis Hamilton. Well, whilst I was driving, I didn't really understand what happened. I felt quite a big thud at the rear, and then I just watched it on the replay just now. And I mean, I gave the guy space. I don't really understand, but you know, it's just really gutting for the result, but also really for the team. You know, my guys, they work so hard every weekend. This is not good points for the team. We could have easily had a 1-2 out there today. Perché hai voluto così forzare anche subito? Ma questo è forzare come lo vedi tu, la mia opinione non era sforzato, io ero più veloce, molto più veloce anche, ho provato a passarlo all'esterno, basta, poi purtroppo ci sono toccati. A lot of fire in my mind. Allora, mi rendo conto del fatto che forse giornalisticamente sarebbe stato più corretto provocare un contraddittorio con il portatore di un pensiero diverso. Invece, io la penso come Giorgio Terruzzi, che oggi nella sua rubrica Imperdibile dopo ogni Gran Premio sul Corriere della Sera, Barbera e Champagne, ha mostrato grande entusiasmo nei confronti di Nico Rosberg e della gara, della manovra, dell'ardore che ha dimostrato ieri in pista. Ciao Giorgio. No. Senti, io sono, dicevo prima, un contraddittorio magari tra me e te non esiste, perché la mia idea è la stessa tua. Condivido l'entusiasmo per Nico Rosberg, perché per essere campioni serve anche, a Napoli dicono cazzimma, serve la cazzimma che Rosberg ha dimostrato. Insomma, Hamilton è andato a Napoli in vacanza, no? È andato a Napoli in vacanza, No, ma comunque per essere campioni bisogna lottare in quella maniera lì, perché è vero che Hamilton è il suo compagnuccio di squadra, però in questo momento è principalmente il suo unico avversario al titolo mondiale. Sì, non è questione di entusiasmo, è questione di, secondo me, di leggere cosa è successo nella testa di sto ragazzo, parlo di Rosberg, sì, che in qualche modo alle prese con una occasione della vita, perché questo ragazzo è un ragazzo che ha bisogno di una macchina, forse più di altri, di una macchina perfetta per vincere, però ha Hamilton come compagno di squadra, che è un talento conclamato, e probabilmente ha fatto un corso di cinismo, perché serve questo per portare a casa il massimo, ha un talento, perché non è che è tutta roba così, forse anche un po' di fortuna. Il fatto è che la manovra di ieri è stata un colpo di fioretto, magari involontario, non era involontario l'attacco di atto, oggi con i telefoni siamo messi malissimo. Proviamo tra un istante a ricollegarci con Giorgio Terruzzi, ma lo ripeto, la penso come lui. Molti si scandalizzano nel dire: ah, ma come si fa? È il tuo compagno di squadra. Mangiate nello stesso piatto e prendete i soldi dalla stessa mano e tu ti comporti in quella maniera. Beh, sì, è corretto questo. È chiaro che quelle sono le due macchine migliori dell'otto, è chiaro che qualcuno pensa, ma se dovessero buttare via il titolo mondiale, cosa impossibile, dovessero buttare via il titolo mondiale per questioni di sportellate tra di loro, farebbero una pessima figura, a parte che non sarebbe né la prima né l'ultima volta che succede nella Formula 1. Però in questo momento Rosberg, che è un pilota, secondo me, dal punto di vista del talento, inferiore rispetto ad Hamilton, sta provando a combattere in quella maniera per conquistare un titolo mondiale nella cui corsa è sfavorito perché è stessa macchina e quell'altro è più bravo, ha più talento, ha più esperienza, e invece lo sta battendo con la cattiveria. 800 24 00 24, numero verde, strade, poi spero di poter chiacchierare ancora per un po' con Giorgio Terruzzi. Very simple, it is unacceptable for me that in the second lap Nico hits Lewis. Very simple, unacceptable. If these things happen in the end of the race, where these two guys, Lewis and Nico, are fighting each other, we can talk about it. But in the second lap, to make this mistake and then let Red Bull and Ricciardo win, I have to say they did a very good job, is ridiculous. Tutti convocati. Dunque, Giorgio Terruzzi, dicevamo, come si può rispondere a quelli che dicono è inammissibile, l'ha fatto anche l'Aldo, inammissibile che due che mangiano dalla stessa mano si prendano a sportellate? Allora, che lo dica la Mercedes ci sta, perché loro hanno bisogno di fare il risultato con entrambi i piloti e fanno anche un po' di, come dire, di immagine, dicendo che se tu prendi due piloti così e hai una macchina per vincere e vince uno, succedono queste cose qua, non ci sono santi. Se avesse fatto Alonso una manovra del genere, probabilmente saremmo tutti a dire: beh, che palle che c'è Alonso che ci ha provato subito. Il problema è che questo ragazzo ci ha provato più volte, quest'anno ha cominciato a Monte Carlo, cioè è uno che in qualche modo ha sviluppato una parte inattesa, secondo me anche per Emil, di come dire, di cinica e glaciale e la utilizza. Secondo me non voleva tagliargli la gomma, ovviamente, voleva provare a passarlo subito. Sì. Se io fossi Hamilton ci starei all'occhio sul fatto che hai dietro uno che ci prova subito. Secondo me non è neanche lui, nei primi anni, nelle prime gare di quest'anno ha provato e le ha beccate da Hamilton, ha provato a passare e probabilmente non vuole più star dietro, vuole vincere il mondiale, è normale. Vuole vincere il mondiale, vuole legittimare il suo vantaggio, vuole togliersi dal problema. C'è l'ultima gara che assegna doppi punti e questo qui significa buttare in un terno all'otto una stagione, vuole arrivare lì con più punti possibili. Poi possiamo, a me non piace tanto un ragazzo che è le catif, come si dice. Però qui stiamo parlando di uno che fa il suo proprio interesse. Ah, sì, assolutamente, ma piuttosto non mi spiego come mai Hamilton, che notoriamente non è una mammoletta, ma fin dall'inizio della sua carriera, tante volte è capitato di criticarlo per manovre azzardate, perché l'è cattive anche lui, come diciamo a Milano. Però Hamilton, che non è una mammoletta, soffre come una bestia questo biondino che gli si è infilato sotto la pelle. Sì, io visto lì sembrava un bambino ferito, no? Hamilton. Fa persino simpatia, devo dire, come un orfanello sembrava. Però, ripeto, secondo me trattasi di farla fuori per vincere un mondiale. Non è mai successo di vincere un mondiale in carrozza, forse a Vettel un paio di volte ce li hai addosso tutti. Se il tuo compagno in aggiunta è... come dire, alle prese con l'occasione della vita, devi aspettarti roba di quel tipo qui. Roba di questo tipo. Un'ultima cosa, sofferenza costante alla Ferrari. Ieri l'altro biondino Raikkonen davanti ad Alonso, e questa è una notiziona per questa stagione, però solite polemiche, la batteria che si scarica, i vertici della Ferrari, Mattiacci eccetera, che continuano a sottolineare, a far trasparire sofferenza e quasi un atteggiamento di scusa nei confronti di errori che sono evidenti. Facciamo errori che paghiamo cari, sprechiamo troppe occasioni, Mattiacci eccetera eccetera. L'immagine a Ferrari è quella della sofferenza costante, continua. Beh, allora, due cose. Credo che i meccanici Ferrari in questi due anni abbiano sbagliato una volta. Non c'entra niente, cioè, la cosa che è successa ieri può succedere, e pazienza. Secondo me, a differenza di quello che ha detto Alonso, ci sta, o che hanno detto Mattiacci, non era possibile prendere il podio ieri a Belgio, perché Ricciardo volava, la Mercedes non la prendi, Williams sulle piste veloci, sull'asciutto, ciao. Dicasi in funzione di Monza, dove non è che c'è da farsi delle illusioni. Il problema è che adesso che la questione potenza del motore pare un più contenuta, per esempio un po' tutti sono convinti che il motore, che l'unità motrice Ferrari sia meglio di quella della Renault, vengono fuori le solite magagne della macchina, una macchina che ha dei limiti e non c'è niente da fare, cioè hanno recuperato, hanno migliorato, ma migliorano gli altri, e una macchina che non vince, macchina qua, salvo, come dire, disastri ferroviari. Cioè, adesso con la storia di Hamilton e Rosberg tutti si gufano, aspettano che questi qui escano entrambi. Ma poi ce ne sono degli altri, per esempio quel sorrisone di Ricciardo, per cui confesso una certa simpatia. Sì, sì, è finalmente un ragazzo che ride in bravo, quel mondo, bravo, lì di bravo. Musoni montati e incazzati per anni. Mamma mia, questo qua ride, è simpatico, non è cambiato, ma il problema è un po' questo. Secondo me il tema, a parte questa attualità, Rosberg, Hamilton, secondo me non riusciamo a capire dov'è il limite di Ricciardo, perché questo qui attacca stabilmente e non sbaglia mai. Cioè, io se fossi in Vettel mi farei delle grandi domande e mi preoccuperei un pochino, perché questo ragazzo qua non è che si va fuori, no, questo qui è uno che ragiona, attacca, spinge, supera con una disinvoltura senza neanche mostrare alcuna scorrettezza e non sbaglia mai. È difficile adesso qui, a me siccome è difficile dire ah è un talento, però francamente questo non è una sorpresa, è una conferma. È un po' l'anno degli underdog, no? Insomma, il filo conduttore, il filo rosso che unisce i due personaggi Hamilton, cioè Rosberg e Ricciard, è questo, cioè le stanno suonando i compagni di squadra ben più quotati. Sì, il filo rosso che unisce secondo me Hamilton, Vettel e Alonso, che sono le tre star di questo campionato, di quest'epoca, è che tutti e tre hanno qualche pulsione di fuga da dove stanno. Legittima peraltro, legittima. Grazie Giorgio, un abbraccio. Grazie, buon come lavoro. Sempre. Grazie Giorgio Terruzzi, 800 24 00 24. Torno a parlare con gli ascoltatori con grande piacere. Antonio, provincia di La Spezia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo dire qualcosa a proposito della questione Rosberg e sì. Hamilton. A tutti quelli che si stupiscono, si meravigliano della questione, cioè di questo atteggiamento di Rosberg nei confronti del suo compagno di squadra, vorrei ricordare cosa era Hamilton qualche anno fa alla McLaren al signor Alonso. Scusi, ho dovuto spegnere la radio, quindi qualche battuta. Sono in macchina, tra l'altro, quindi ho qualche problema. Ecco, quindi io Rosberg lo conosco personalmente, perché per questioni familiari mio figlio lavora in Formula 1, è stato elettronico di Rosberg ai tempi della Williams. È una persona normalissima, è normalissima in un mondo di lupetti, è quello, il mondo dei piloti di Formula 1. Quindi voglio dire, è tutto normale. Hamilton comincia ad avere un po' di pancia piena perché ha vinto dei mondiali, è un campione conclamato, tutto quello che si vuole. Quell'altro è bravino, non come Hamilton, non come Alonso. Però evolvisce qualcosa anche lui, ha un nome importante. Questo è legittimo, ma sono d'accordo Antonio, questo è legittimo. Hamilton, quando è arrivato in Formula 1, diciamo, questo qua ha talento, però è cattivo, cioè è uno che combatte. Adesso sembra quasi sorpreso dall'agonismo del suo compagno di squadra. Poi lei sa meglio di me come ci sono un sacco di buonisti come quelli che scrivono: i principi di sportivi di realtà e correttezza sono un optional. No, certamente non sono un optional, però nello sport professionistico al massimo livello, se non hai questo tipo di cattiveria agonistica, non è cattiveria tout court, è cattiveria agonistica, non arrivi a vincere un mondiale, non arrivi al top nel tuo lavoro. Quindi mi sembra qualcosa di un tratto che un campione deve possedere nel suo DNA. Ce l'aveva Lauda, ce l'aveva Ayrton Senna, rimanendo in ambito Formula 1 per non andare da altre parti, ma possiamo fare un miliardo di esempi. Ce l'aveva Alain Prost, qualcuno di voi magari si ricorderà le scintille tra Prost e Senna quando guidavano la McLaren. Nessuno può dire che fossero dei piloti scorretti o dei bastardi in pista. Certamente era gente che voleva vincere e l'obiettivo era quello. Poi possono raccontarmi quello che vogliono, la Formula 1 è uno sport individuale. Paolo, Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solo sapere se pensate che Hamilton se ne va a fine stagione, se abbiamo qualche notizia di Schumacher. Ascolto per radio, grazie. Allora, notizie di Schumacher sono quelle ufficiali, non ce ne sono di nuove, e a quelle mi attengo perché in tutta questa vicenda, fin dall'inizio, la cosa che più mi ha dato fastidio sono state le illazioni, le supposizioni e i pettegolezzi. Quindi ci atteniamo alle notizie ufficiali, sta recuperando, lentamente recuperando. Quanto ad Hamilton, discorso che trovo più interessante, o senz'altro più da dibattere, abbiamo sentito Giorgio Terruzzi, la sensazione è che le tre superstar in questo momento nella Formula 1, e cioè Hamilton, Vettel e Alonso, abbiano qualche pulsione di uscita dai team di appartenenza, quindi e credo anche che sia legittimo, insomma. Io mi metto anche nei panni di Alonso, è vero, vengono ricoperti d'oro, sono strapagati, eccetera eccetera, guidano comunque per dei top team, però dopo qualche tempo la sofferenza sportiva può emergere, o l'insofferenza sportiva, come nel caso di Alonso è più volte emersa, dal mio punto di vista in maniera assolutamente legittima. È chiaro che questo può accadere. A proposito di notizie, invece ne do un'altra, così che mi arriva, ve la giro così com'è, da un ascoltatore che ci ascolta dalla Germania, si chiama Daniel, e che ha non vi sto a spiegare gli antefatti, però che dà per certa la cessione di Benazia dalla Roma al Bayern di Monaco per quanti soldi? Una quarantina di milioni. L'affare è ancora in divenire ufficialmente. Io vi giro questa notizia in ascoltatore, andremo a verificare nei prossimi giorni. Boh, non lo so. Certo, per 40 milioni io Benazia lo porto da Roma a Monaco in macchina. Non sulle spalle, ma in macchina di sicuro. Giancarlo Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, mi ha superato il signore di La Spezia che... In Formula 1 non conta niente, solo chi vince. Tutte le battaglie sono lecite, perché del secondo classificato nel mondiale alla fine non se ne ricorda nessuno. No, ma in ogni competizione del secondo non si ricorda nessuno. Per cui è legittimo Rosberg. Io ieri ero lì, ero un po' più avanti, lì così si parlava di quello e... abbiamo ricordato le cose di Mansell, di Senna, di tutti gli altri. Ma sì. Del secondo... non si ricorda nessuno, per cui è giusto così. No, ma è giusto quello. Ma certo, lo sport è anche questo. Poi l'aspetto singolare è che due piloti appartengono alla stessa scuderia, e quindi mi metto anche nei panni di quelli che hanno costruito una macchina vincente e che non lo perderanno, però potrebbero rischiare di perdere un titolo mondiale, magari a beneficio di Ricciardo, con una macchina nettamente superiore a quella di tutti gli altri. Per inciso, io non ho mai creduto nella politica dei due galli nello stesso pollaio. Secondo me all'interno di una scuderia, anche per questi motivi, è giusto che ci sia una prima guida e una seconda guida. Ragazzi, torniamo domani in diretta, Radio 24 alle 14, tutti convocati. Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.